vuoi aggiungere qualcosa, Marco? Sono continui. Certe volte credo anche alla prima civiltà sulla Terra, che siano viaggiatori, come era un viaggiatore Colombo, ha esplorato terre inesplorate. D'altronde, perché abbiamo la presunzione di essere soli? Magari perché lo dice la religione cattolica, ma proprio per niente, proprio per niente. Sì, viaggiatori che hanno trovato magari gli uomini allo stato primitivo, gli hanno insegnato qualcosa. E si parla di questa prima civiltà ipotetica avvenuta decine di migliaia o centinaia di migliaia di anni fa. Naturalmente prove non ce n'è più, perché dopo tanti anni, insomma, tutto finisce in polvere. Vai Robè. Allora, io ci credo certamente, mi prenderanno per un fantastico, però io ci credo assolutamente che gli extraterrestri ci sono stati e ci sono anche adesso in mezzo a noi. Non si sa come siano fatti, questo, ci sono un sacco di fake news eccetera eccetera, quelle ci sono più balle che tutto, però su 100 balle un percentuale di realtà c'è. Ci sono un sacco di eventi e situazioni che ci danno informazioni che esistono veramente. Nella stessa Bibbia ci sono delle immagini. Tu hai detto, non è proprio così, perché se leggi il Vecchio Testamento, il coso, molte volte su quei programmi di Piero Angela, Mistero, come si chiama l'altro che c'è, adesso mi viene il nome, vabbè, già mi avete capito, quello di Giacobbo, quel programma lì proprio fanno dei servizi su questo campo qua, sul campo di civiltà extraterrestre, eccetera, eccetera. Comunque, se qualcuno di voi si vuole togliere qualche dubbio e vuole farsi venire qualche dubbio almeno, vada in un certo orario, dopo all'imbrunire, in una località, zona del Cagliaritano, l'ho già detto a coso, a Giovanni, io ci devo andare, so dov'è, perché c'è un amico che lui organizza proprio delle comitive per andare lì, ha scritto anche un libro, lui è grande appassionato di queste cose qua particolari, a Paolo Arbare, è una cittadina vicino a Barumini, quelle zone lì del Cagliaritano, del Campidano, e tu tutte le notti di tutto l'anno ci sono delle luci inspiegabili che nessuno non riesce a capire cosa si tratta. All'imbrunire tu vedi queste luci nel cielo ed è proprio quella zona dove hanno trovato quegli scheletri di persone gigantesche di diversi metri, che lì hanno insabbiato tutto, sono andate televisioni internazionali eccetera, l'esercito, lui ha intervistato delle persone di lì del posto, vecchi del posto, e hanno raccontato tanti particolari che hanno poi censurato, perché dice quando hanno fatto queste scoperte di lì cambi completamente tutto il discorso religioso eccetera, perché si cambia tutta quanta la storia dell'umanità vedendo certe cose che ci sono in quel posto lì. Sì, dopo, attenzione, quelle che vedono sono luci, però non sono astronavi, attenzione. Ti ripeto che è probabile che da altri pianeti mandino forme di energia sulla Terra e ci vedono quello che succede sulla Terra. Poi per quanto riguarda fisicamente gli extraterrestri, non lo so. Comunque, una delle prime civiltà che ha studiato il cosmo, non dimentichiamo, erano i nuragici. E questo te lo dico non perché te lo sto dicendo io, perché io conoscevo l'astronomo Properzio, l'astronomo ma si scrive con la Ichis, erano studiosi di archeoastronomia e hanno accertato delle cose, che i nostri antenati, diciamo, nuragici, studiavano il cosmo, e la maggior parte dei monumenti sardi, come di giganti, menhir, nuraghi stessi, sono posizionati in determinati, puntano, diciamo, la porta d'ingresso, per dire, nuraghi Torralva, è puntata in un punto specifico del cielo dove sorgono gli astri principali, e così sono anche altri monumenti, per esempio le tombe di giganti, diciamo le sedere rivolte in avanti, no? È come si chiama il tramonto, hanno un significato, l'inizio della vita e il tramonto della vita, caspita, quindi anche le, diciamo che sono dei segni che hanno un significato, già da allora ti puoi immaginare, adesso hanno cercato la civiltà nuragica che è vissuta addirittura 6-7 mila anni fa, non come dicono certi astronomi di merda che stanno sminuendo l'importanza della nostra civiltà, una delle prime a farsi sulla faccia della Terra. Diciamo che anche il come si chiama, Monte Dakoti, è una delle prime zigurate costruita prima del delle Ziggurat che sono Ziggurat o come cavolo si chiama, che sono in Iraq e in altri luoghi. Sì, sì, ma ci sono tanti siti archeologici, forse nel Mediterraneo non esiste uguale posto, stranamente è proprio la Sardegna, perché se vai in Corsica non c'è niente di attività umana prima, diciamo, di 3-4 mila anni fa, mentre Sardegna è pieno. Poi l'esempio più eclatante, a parte questi nuraghi, cose così, c'è anche a Santo Cristina, non so se siete andati, in quel posto sacro, che è una cosa di migliaia di anni, che in determinati orari dell'anno, del solstizio di primavera ed estate, cade esattamente il sole in questo posto, non so se siete mai andati, penso che Giovanni ci sia andato, addirittura quello di primavera, anzi d'estate, no, di primavera si vede l'immagine capovolta, cioè uno dice come mai, e c'è l'immagine della persona che va sotto di lì, si vede capovolta quando c'è il solstizio d'estate, il 21 di, come si chiama, di giugno, mentre il solstizio di primavera il 21 di marzo, l'immagine la vedi perfettamente, il sole cade esattamente a mezzogiorno in quel punto lì. Siamo pieni diciamo di cose che hanno a che fare con l'astronomia, anche se diciamo gli scienziati di oggi sono pochi quelli che credono alla nostra grande civiltà, perché non hanno interesse, diciamo, hanno paura che la nostra civiltà, una volta che viene scoperta, diciamo, attiri in Sardegna la maggior parte dei turisti, i flussi turistici, e questo, diciamo, è uno dei problemi che non hanno mai pensato ai nostri politici, no? Ci sono delle persone intelligenti però che hanno capito, che hanno intenzione di sminuire la nostra antica civiltà, perché una delle prime apparse fu la faccia della terra, prima dei Sumeri, degli Egizi, eccetera, eccetera. Sì, si è detto bene, poi ci sono delle cose uniche, tipo i dolmen, che li trovi soltanto in pochissime parti del mondo, li trovi all'isola di Pasqua, poi mi sembra in Irlanda, in qualche pezzo delle altre parti, due o tre parti del mondo, sono delle cose uniche e dimostrano quanto siano antiche queste cose, e c'è una logica di tutto. La logica è che, diciamo, i primi dolmen sono stati costruiti in Sardegna, forse quelli che hanno costruito nel nord Europa, diciamo, è stata un'influenza nuragica, quasi di certo questo, diciamo, in certi luoghi del nord Europa c'è un flusso di turisti su questi monumenti che è una cosa incredibile. Se prendiamo per esempio quello di Stonehenge in Inghilterra, mentre noi diciamo, sì, Stonehenge sarà un bel monumento, ma noi monumenti ce ne abbiamo a migliaia, quello è il bello, no? Se abbiamo, diciamo, dei nuraghi completamente sepolti perché c'è stato un cataclisma, che forse era il diluvio universale, che ha distrutto certi nuraghi e li ha sepolti. Io sono sceso a Torralba in un nuraghe ed è completamente nel sottosuolo. Allora siamo arrivati a un certo punto dove si poteva più procedere, perciò c'erano dei cunicoli che si infilavano in varie parti del sottosuolo del nuraghe, per dire, no, è completamente sepolto, quindi c'è stato un cataclisma pauroso che è riuscito a seppellire i nuraghi fino al primo piano, e questo cataclisma si ipotizza che sia proprio quel del diluvio universale citato nella Bibbia. Sì, infatti, ma poi il monopolio, la cosa strana è che i nuraghi esistono solo in Sardegna, non esiste una parte nel mondo che abbia delle costruzioni di manufatti fatti in quel modo lì, assolutamente niente di coso. Certe cose si possono approcciare, diciamo, ai discorsi dell'Inca, degli Azzecchi, c'è qualcosa che ricorda un pochettino per certi versi, però è una forma completamente diversa da tutte le altre parti. Attenzione, sono venuti molto dopo i nuraghi sia gli Inca che gli Azzecchi. Comunque passo il mito a Marco. Sì, stavo guardando un paio di immagini, Ziggurat, dolmen, guarda, per un film, vabbè, quello era fantascienza, però avranno preso spunto da riscontri nella realtà, no? Cioè, notavano che da una parte all'altra del mondo, tipo le piramidi Maya a gradoni, le piramidi egiziane e le piramidi cambogiane, lo stesso tipo a gradoni, no? Però ricorrevo a questa figura della piramide, dice, come mai proprio la piramide, ma alla fine lo Ziggurat lo stesso è una piramide a gradoni, no? O più bassa. E come mai questa forma ricorrente è agli antipodi del mondo? Come se ci fosse stata un'influenza di qualcosa, di qualcuno che abbia ispirato, diciamo, gli uomini dell'epoca. Quindi sono un mistero ancora da scoprire. Diciamo che le cicurate sono un altro, hanno un altro simbolo in poche parole, no? Le cicurate sono un tentativo dell'uomo, anche questo naturalmente, di innalzarsi sempre più in alto, però erano quelle Inca e quelle Azteca erano delle cose sacrificali, avvenivano le feste cruente, terribilmente macellai in pratiche parole, quando vincevano una tribù sull'altra buttavano le teste dei nemici dalla cima di quelle piramidi che sono nel Sud America, no? Quindi il significato da quelle egiziane è un po' diverso. Parentesi, Robert, l'avevi visto mai Apocalipto di Mel Gibson? Mi sembra che c'era l'altro giorno alla televisione proprio per quello, di quello lì si parlava. Comunque Monte d'Accordi è molto simile a cosa? Machu Picchu come tipo di concezione costruttiva, non so se ce l'avete presente. Ma l'hai detto? Monte d'Accordi a Porto Torres, quella cosa, forse una delle cose più antiche che abbiamo in Sardegna insieme ai nuraghi, c'è qualcosa di simile a Machu Picchu nelle costruzioni inca che ci sono in Perù. Sì, attenzione, Monte d'Accordi è molto, molto, molto più antico. Diciamo, guarda che noi parliamo del Perù e degli Inca, parliamo appena di circa 1000-1500 anni fa al massimo, attenzione. Le piramidi egiziane sono molto più antiche di quelle del Perù e dell'America Latina. E la zigurate che a Monte d'Accordi è forse più antica delle zigurate che sono sia in Iraq che mi sembra ci sono in un'altra nazione del Medio Oriente, adesso mi ricordo se la Siria o quale nazione. No, ma la mia osservazione è stata fatta non per il periodo storico, è stata fatta perché ci sono delle influenze secondo me al di fuori dalla conoscenza umana extraterrestre, perché tu non puoi per dire 2000 anni fa, perché l'Inca stiamo parlando al tempo degli spagnoli, invasione spagnola, forse 1200, 1300, no, aspetta un attimino, sto dicendo fesserie, dopo la scoperta dell'America 1500, adesso stavo dicendo fesserie io, tagliare altri 500 anni di storia, però come fa una popolazione completamente diversa, una località completamente diversa, a avere delle stesse concezioni di costruttive? Secondo me c'è qualche influenza di qualcosa extraterrestre, perché se tu guardi anche dei manoscritti, bassorilievi, ci sono delle immagini di figure strane, extraterrestri, navicelle, persone con degli scaffandri, sia dall'Inca che nelle figure egizie e in altri tipi di cose, di altre civiltà. L'uomo ancora non c'era andato, non c'era stato i conquistatori ancora non c'erano per portare delle culture di altri posti, c'erano già sul posto queste cose e tu le trovavi di lì in Perù e poi te le trovavi magari molto più antiche in Italia, in questo caso in Sardegna, per cui una logica di qualcuno che le abbia detto falla in quel modo c'è. Mia Riccardina, ciao Roberto, scusa se non ti ho avvisato perché abbiamo avuto un problema con la batteria del sample, quindi non sono riuscito a fare prove. Ma poi siete andati alla gente? Sì, positivo, siamo andati, però eravamo mezzo senza luce perché abbiamo avuto un problema con la batteria. Ah ok, comunque sono in compagnia mia, di Marco e di Giovanni Bracco. Ti rilancio a Marco che era in parcheggio e poi prenderà il mic Giovanni. Avanti Marco. Ehi, ciao Riccardo, ben entrato, ben sentito. Vai Giovanni. E ciao Ricca, ben entrato, ben sentito anche da parte di Bracco. Stiamo parlando di cose un po' complicate per te. Comunque, Ricca, se ti piacciono, se no cambiamo argomento, non ci sono problemi. È super interessante ascoltarvi. Comunque saluto, come ha detto, a Roberto, Giovanni e a Marco. Mi hai ricordato quelle scritture rupestri, no? Hai ricordato quel film dove c'era quell'attrice tipo Alien Covenant, che gli scozzesi avevano scoperto roba di 70.000 anni prima, appunto degli uomini che seguivano questa creatura più alta, no? Più alta, e c'era una costellazione raffigurata costantemente, no? Anche lì sempre spunti per fare film poi dozzinali, però sempre spunti hanno preso da fonti più o meno reali, dai. Anche nella stessa Bibbia ci sono delle immagini di creature non terrestri, di figure di persone con degli scafandri, cioè tipo tutte spaziali e cose del genere. Non puoi fare una cosa di 2000 anni fa e anche oltre, perché la Bibbia è stata fatta anche prima di 2000 anni fa, e ci sono queste figure che non hanno, diciamo, uguali nella terra, perché prima normalmente ai tempi antichi c'erano delle divinità, come si chiama, fantastiche, cose così, ma fare una cosa così dettagliata con una specie di tuta spaziale, con un'arma tipo una pistola o qualcosa del genere, cioè era, diciamo, un po' inconcepibile fare una cosa del genere. Diciamo, ci sono troppi discorsi religiosi, di cambiamenti di storie dell'umanità, per cui sarebbe un po' complicato, ma io sono sicuro che c'è tutto, la storia è tutta completamente diversa da quella che noi abbiamo studiato. Già a me l'altro giorno stavo leggendo un discorso su Garibaldi, se voi sapete la verità su Garibaldi, non possono dirla la verità, perché sennò sarebbe cancellare un mito, che era un pezzo di merda di prima categoria Garibaldi, un mercenario ammazzato lui e con tutti questi criminali che ci aveva preso, che noi li consideravamo eroi e tutto quanto, erano dei mercenari, i peggiori delinquenti del coso, è tutta una cosa pilotata eccetera eccetera, per cercare di dare un'immagine di un coso. Lui, ho letto le memorie poco prima di morire, che c'era uno che ha scritto le ultime parole, ho detto: io non sono italiano, io sono francese, io sono nato a Nizza e non mi sono mai reputato italiano. Le hanno tagliato un orecchio perché aveva violentato non so chi quando era in Sud America, dice era un eroe, un sacco di balle ci hanno raccontato. Se non sono una americana, dubito che abbia contribuito all'unità d'Italia, non c'è dubbio, vabbè, quello è un altro discorso. Parliamo voi di figure extraterrestri, anche diciamo nei bronzetti nuragici ci sono delle figure strane, per esempio c'è una specie di guerriero, un esempio, con quattro braccia, quattro occhi, e diciamo che hanno identificato come fosse un extraterrestre questo qua, poi bisogna vedere, insomma, una cosa misteriosa, ce ne sono da scoprire, perché in America hanno trovato un esempio pratico, l'impronta di mocassini su una roccia che risale addirittura a 30 milioni di anni fa, vai, e così hanno trovato anche in Sardegna degli oggetti d'oro fossilizzati, quando loro non lo conosceva nessuno, intendiamoci, almeno così dicono, non mi ricordo in quale paese sia, in quale grotta sia, no? Sono cose misteriose che purtroppo non sono facili da risolvere. Ok, passiamo di nuovo il microfono a Riccardino, alle volte lo fa noi, va? Ok, va bene, grazie, Giovanni. Sì, comunque sto ascoltando queste cose, sono qui ascoltando interessato queste cose, no? Non ho seguito tutto il discorso perché ho provato proprio adesso, perché siamo arrivati una ventina di minuti fa che stavamo sistemando anche altro, questa sera la batteria del camper che non sta andando. Comunque adesso ci siamo rassegnati, abbiamo capito che la batteria a terra non funziona più e bisogna ordinarne una nuova, e quindi sono tornato a poco, come ho detto. Se serve aiuto, dillo a tuo padre per comprarle o andare a buon prezzo, dilli a passare in officina, già riusciamo a darle a buon prezzo, tanto sono batterie normali, non c'ha quelle al gel, c'ha le batterie al piombo lui, diciamo gli accumulatori, non detto il nome giusto, sono accumulatori, non batterie. No, mi sembra che sono quelle al gel forse. Ma scusa, non stavo utilizzando quelle della... c'è altre batterie oltre le due che ci sono per la messa in moto, ne ha altre interne? Sì, dentro la cellula. Da quanti ampere è quella batteria? Adesso come è arrivata voi, io dico, sta andando a mangiare, te lo dico comunque da quanto è quella batteria. Comunque mi sembra di quelle che usano per i pannelli fotovoltaici. Sì, quelle algee normalmente si utilizzano, quelle costano un pochettino, dai. Già si riesce a provare a chiedere, vediamo degli amici cosa si può fare, a meno che lui non abbia contatti più convenienti di quello che ho io. No, no, di questi argomenti se stiamo parlando, Marco e Coso e Giovanni, passiamo ore e ore di discussioni. Io sono convinto di una cosa, che noi siamo una seconda civiltà, per non dire una terza civiltà nel mondo, quella che c'è adesso da qualche decina di migliaia di anni, perché l'uomo nella Terra, diciamo, l'uomo moderno esiste da, si dice, circa 10.000 anni, però io sono convinto che prima di queste, per 10.000 anni, ci sia successo un evento, una catastrofe, una qualcosa di inimmaginabile che ha fatto scomparire tutti i dinosauri, eccetera, eccetera, magari qualche meteorite o qualcosa del genere, e prima di quello c'era un'altra civiltà, molto ma molto più evoluta di quanto ci immaginiamo noi, sicuramente, io la vedo così. Chiedo discussione anche a Marco, prima a Marco e poi a Giovanni, e ci daranno il loro parere. Vabbè, io taglio corto un attimo che vado a bere, è in bagno, devo andare in fretta. Comunque Robe, ho sbagliato, il film era Prometheus e non Covenant. Prometheus, quello delle pitture rupestri, dai. Rilancio direttamente a Giovanni. Pitture rupestri, a proposito di Sardegna, ce ne abbiamo a bizzeffa quanto ne vogliamo. Basta andare, come si chiama, le Dorsdeiana che hanno scoperto a Bonorva, diciamo da poco, che la sovrintendenza l'ha chiusa, chissà perché l'ha chiusa, però che l'ha scoperta è un, come si chiama, un mio amico di Bonorva che ha l'agriturismo proprio in quella zona. Ebbene, dentro questa domus ci sono delle spirali tipo galassie, roba del genere, che dimostrano appunto che i nostri antenati studiavano il cosmo. La sovrintendenza, solitamente quelli che sono della sovrintendenza in Sardegna vengono sempre da fuori capoccia, e quindi è gente che non ha nessun interesse a valorizzare i nostri monumenti, diciamo, ci sono delle spirali con dei colori vivissimi conservati migliaia e migliaia di anni, quindi questo dimostra che i nostri antenati studiavano il cosmo. Naturalmente cosa? No, mica vedevano il cielo come lo vediamo noi, offuscato dall'inquinamento. Allora il cielo era talmente limpido che sembrava di toccarlo praticamente. I nostri antenati vedevano le galassie, diciamo, non solo Andromeda, ma tutte le altre che sono, diciamo, nei nostri paraggi, diciamo, tanto per dire, anche se è stato milioni di chilometri di distanza. Quindi c'è tutto ancora da scoprire, naturalmente, come dice Roberto, anche se io, per quanto riguarda gli extraterrestri, lì ci sono dei dubbi. Poi che ci siano state altre civiltà, può anche darsi, perché i dinosauri, attenzione, i dinosauri mai si è stato, diciamo che l'estinzione dei dinosauri è dovuta all'esplosione di una, loro dicono almeno, di una supernova, e questo l'hanno calcolato perché c'è uno strato di terreno sulla Terra che lo chiamano iridio. L'iridio, diciamo, si forma solo dalle radiazioni potenti che provengono dal cosmo. Ok? Riprendi, Riccardo. Sì, Riccardo. Sì, ok, ecco, in prezzo. Aspetta un attimo che adesso smonti un attimo il panno della batteria, che mi ha chiesto Roberto quanti ampere è, così, perché dopo non si ricorda. Verifica naturalmente, mi immagino che sia tutto a 12 volt l'impianto, però per sicurezza verifica che sia una batteria, solo una ne avete di batteria per alimentare la cellula, Riccardo? Dico la verità, quando l'abbiamo preso la cellula, questo era uno che aveva venuto e ne aveva comprato due nuove, nove di testa. Oh, questi sono dei camper, ce ne hanno presa una per alimentare un altro camper che avevano tutta di essere. Perché con tutta quella roba che avete dentro, voi dovete stare molto attenti per l'assorbimento, diciamo, a fare in modo che non buttate completamente giù l'impianto. Sarebbe bene tenerne una di scorta eventualmente, o utilizzare i pannelli solari quando siete fermi per la ricarica, se no è un problema. Senza alimentazione ti si blocca tutto, il pompa dell'acqua, soprattutto la cosa più importante è l'acqua. La luce riesce a sopperire perché ti metti una pila, una di quelle lampade a LED, già consumano poco, però se ne ti si blocca anche l'impianto idrico è un bel problemino. Non parliamo poi del frigorifero, se è quello assorbe parecchio quel frigo che avete voi. Sì, lo so, infatti. E adesso vediamo, perché sto che costano un bel po' quelle batterie a gel, adesso come ci vediamo. E continuate un attimo che smontiamo il vano alla batteria. Ok, dimmi più o meno la cosa, la capacità e l'amperaggio ora. Va bene, no, Giovanni, sono belle discussioni, bello, molto interessanti. A me poi quando sono argomenti così tecnici soprattutto, o scientifici come in questo caso, sono molto appassionato e cerco sempre di carpirne le informazioni, o le nuove informazioni, perché è sempre bello sapere qualcosa di novità. Vabbè, continua con il ricambino, che io sto facendo una roba, sto mettendo a caricare una batteria. Ok, vediamo se è rientrato Marco. Aspetta, ma lontano anche in due minuti, mi bevo un goccio d'acqua che mi è venuto un po' di sette, se riprendo subito. Fai controllare di giù. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Eccomi qua. Roberto è andato bene, ho sentito. C'era Giovanni e Riccardo, Gianni. Sto facendo, diciamo, un'operazione sulle batterie. Marco, avanti, ciao Giovanni. Aspetta, caspita, riprendiamo sempre insieme Giovanni, ripeti. E tu chi sei? Io sempre Marco, è entrato Gianni. Capito, saluti Gianni, io sono Giovanni, ma messo bracco per non confondere con Gianni, Giovanni e altri che ci sono, dai. Riprendi. Gianni doppio rullo a questa parte, ciao Bracco, vi ho sentito cordialità. Avanti Marco, lo sai che ho trovato una frusta nera? ho sentito, ma in zona tua, e chi può aver buttato in zona tua una frusta nera? Qualche CB, forse magari gli eredi di qualche CB di 30 anni prima, di 40 anni prima. E ho sentito anche che gira gira, se avessi frugato magari trovavi pure radio. Non mi andava, l'antenna sbucava, quindi l'ho tirata fuori. Ma aprire la busta e guardare, c'era altra roba, ma non ho toccato niente. Non ho toccato perché non mi andava, lì mi conoscevi tutti, mi direbbe a Tottori. Ma c'era un 4,40, già. Lo stavo per dire io, magari era tutta piena di Kenwood. Era una busta grande, una busta di quelle grandi, di quelle che ti danno, per intenderci, quando compri i pantaloni, nei negozi di abbigliamento, di quelle grandi. Magari qualcuno che la moglie se l'ha cotuvola di gas. E chi lo sa, io so solo che l'antenna a me mi serviva proprio quella, roba la stavo cercando. Però Marco, ti mando la fotografia come l'attacco sotto, non so come attaccarla alla base magnetica. Prova a mandare un po' una foto dettagliata, cioè che si veda abbastanza grande. No, perché prima esisteva Sirtel, c'erano tante marche che adesso manco ci sono più di, e c'erano attacchi a galletto di diverso tipo, simili ma non identici, in poche parole. Ma ricordate la marca Aldena delle cose, delle antenne che la utilizzavano tutti i mezzi militari? Aldena no, però me ne ricordo un'altra, è presente l'antenna che avevano i carabinieri, non so se ce l'abbiamo ancora, quella con la spiralina alla base e poi uno stiletto, quella era della, ma c'era sulla punta della lingua, magari lo sai. E Aldena, allora tutte le volanti, i carabinieri che c'erano quella specie di galletto per stringere sotto, erano tutte Aldena. Ricordavo un nome peraltro mai sentito, cioè non roba C, non roba che ha attinenza con la CB, è proprio roba esclusiva. Però fatelo ricordare adesso. Riprende Giovanni. No, loro facevano roba militare, per frequenze militari. Poi non so se facevano anche roba per la CB, non lo so, però adesso siccome mi è venuta in mente questa antenna che ce l'ho sotto gli occhi, questa frusta che c'ha Gianni, e adesso pensando se te la faceva uguale, però anziché lo stile del vetroresina caricato, c'era un'antenna in acciaio inox, la Aldena, era da tutti i mezzi della polizia, le volanti, vi ricordate le Giulia e le Alfetta, tutti avevano dei carabinieri, la polizia avevano quell'antenna lì. Guarda, sto vedendo qua, c'era una nota tecnica, roba dei carabinieri, naturalmente di dominio pubblico, no? E c'è anche parla dell'antenna, vediamo cosa dice. Porca miseria, qua è tutto tecnico però. Si vede un mezzo militare. Ecco, caratteristica antenna, vediamo. Sistema radiante UHF, scusate, se leggo. Tetra gamma 400, tipo 380, 430. Ah, ma questa lunghezza è 1,5 metri, questa roba alta, no, vabbè, però non dice la marca comunque. E poi hanno cambiato anche le frequenze e queste cose, questi apparati radio non militari, diciamo del Ministero della, come si chiama, del Ministero dell'Interno, della Polizia, Carabinieri, vabbè, Ministero della Difesa, parliamo di cose di forze pubbliche, perché l'esercito usano frequenze completamente diverse, e avevano queste antennine inox che si hanno riempito tutte le macchine, non ricordo come fosse oggi, con quell'antennina col gallettino e in acciaio inox lo stilo. Oggi c'ho il QRM a questo rabbasso, finalmente, cacchia, tutto il giorno a 9. Ma anche quando ero a Porto Torres, perché io QRM nulla, e anzi era abbastanza silenzioso, Se fosse stato ieri non mi avreste sentito a Sassari, Oh, tu eri in mezzo al QRM, io ti ascoltavo Santiago 7, ma eri in mezzo al QRM, sentivo il bip, poi qualche pezzo delle parole, perché era toccato il QRM, anche se il segnale era abbastanza forte, però eri in mezzo al QRM. Chi ti ascoltavano bene erano tipo Gianni, che loro sono un po' più aperti per Porto Torres, e Claudio, che diciamo ha una posizione un po' più favorevole rispetto a me. Che avanti. Mia Michele, ciao Michele, ben sentito, in compagnia mia di Gianni Doppio Rum, di Marco Condor, e c'era anche Giovanni Bracco. Avanti Giovanni, se ci sei ancora per Michele, o se no riprende Marco. Sì, comunque non la trovo, Robè, questa marca qui non la trovo, vado a trovare il posto, vabbè, non è importante, era una marca che non avevo sentito, cioè non era roba amatoriale, veramente era roba proprio per uso civile. Marco, guarda l'attacco. E forse Michele se la ricorda, Aldena, te la ricordi le antenne degli apparati carabinieri e pulizia, tu Michele? Sì, in grosso modo, come non fate. Comunque saluto a tutti, ciao Roberto, Gianni, Marco Condor e Giovanni Bracco, da questa parte, e in questo modo me ne ricordo, però diciamo il mallone era un tipo di legge. No, parlo del nome, la marca, perché lui sta dicendo un altro marca, ma se ti guardi le pubblicità dei giornali CQ Elettronica anni 70, c'è sempre una pagina intera, Aldena Telecomunicazioni, le nostre antenne sono utilizzate dai maggiori enti militari, civili, eccetera. Quello no, non me lo ricordo, quello no, magari se lo sento mi viene in mente, ma non mi viene, non lo so. Le vecchie Alfetta, le vecchie Giulia, ti ricordo, c'erano quella specie di carica, mollone sotto, col gallettino di bloccaggio e l'antennina più corta di una di quelle fruste nere che utilizziamo normalmente qua, tutta in acciaio inox, col pallino sopra in testa. Aspetta, però quelle della volante erano un po' più lunghe della strada della polizia, un po' più lunghe, perché mi sa che trasmettevano anche 60 metri. 74 MHz, una cosa del genere, poi sono saliti su di frequenza, però rispetto a una degli 11 metri erano più corte di antenne, più o meno la metà erano come dimensione, io me ne ricordo più o meno 80 cm, 70-80 cm, perché poi c'era la molla e erano caricate, so. Esatto. Oh Robè, dimmi tutto Riccardo. È da 100 ampere, adesso ti mando anche l'effetto, te la segni, la marca è Fiamma. Il modello è Neptune. Fiam si dice, Neptune non ci interessa, 100 ampere così piccola ce l'avete, una batteria per i servizi così piccola. Sì, erano due prima, erano solta. Comunque Fiam, scusa. Perché al limite, secondo me, se volete un consiglio, normalmente se l'impianto è efficiente, c'è la posizione, il posto per metterne due, c'è già predisposto mi pare. Sì, è già predisposto, ce n'erano due prima. Perché a quel punto, diciamo, non è paragonabile una batteria, un accumulatore, non batteria in questo caso, solamente detto batteria, l'accumulatore ne metti due da 100 ampere, visto che c'è già la predisposizione per metterla, e qui c'è una capacità, e quelle saranno, un 100 ampere saranno almeno 700 ampere di capacità, per cui come ne hai, facciamo 700, 1400 ampere di capacità, rispetto a una messa unica al gel, che magari te ne potrebbe dare 800, è meglio metterne due, cioè quasi il doppio della capacità, fino a vedere naturalmente se l'alternatore ti permette di caricare, considerando che quel mezzo, se non sbaglio, c'ha due doppie batterie, c'ha l'impianto a 24 volt, mi sembra, confermi Mixoso, Riccardo? Sì, mi sembra per cui c'ha l'impianto a 24 volt, Bisogna sperare bene, diciamo, considerando che quella cellula non è nata per quel mezzo lì, non lo so, bisognerebbe vedere se è scaldato un po' l'alternatore, bisogna fare delle prove, però io ne metterei due direttamente. E infatti adesso questo guardare il prezzo costa un bel. No, al gel, la batteria al gel non la pagherai meno di 250 euro a 100 ampere. E infatti questa costa 300. A quel punto secondo me è meglio metterne due da 100 e ci butti fuori 200 euro. Poi secondo come le prendi le trovi anche di meno. E c'hai due batterie separate. Ciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucci che decine in questo periodo del coronavirus, si sono fatti ricchi i venditori di batterie. Orobe, Rack. Come? Rack, Romeo, Alfa, Charlie, questa marca, Rack, ma la ricordavo più lunga la marca, boh. Che faceva antenne per uso, diciamo, della polizia, dei mezzi di, come si chiama, forza del lusso? Forse dei carabinieri, quelle con la spiralina alla base dello stilettino, quelle piccole piccole, poi non so se fosse a mezz'onda, a 5 ottavi, non, dalla misura non sapevo dire. E dice, io che vivo con le rack professionali UHF, ecco qua, è uno radiatore credo che l'avesse scritto, però non ci sono foto. Questo è un vecchio topic che hanno rimosso foto, cioè c'è solo il testo, me, nudo e crudo. Guarda, io ho una cicuretta, una, ne ho tante cicure elettronica degli anni 70, c'era sempre pubblicizzata Aldena Telecomunicazioni, specializzati per antenne per uso forza dell'ordine, c'erano le macchine della polizia e civile, uso civile, poi per anche usi radioamatoriali, e c'erano le classiche antennine, quelle tipo la frusa con la carica, con la molla sotto, e normalmente erano a mezz'onda considerando la lunghezza di quella bobinetta che c'è sotto, per cui dovrebbe essere a mezz'onda, perché le frequenze di uso erano 73 o 74 MHz, al contrario di adesso. Marco. Gianni, sì, ho visto, ma sembra una cosa fatta, saldata a mano a me quella sotto, non mi sembra un attacco normale, quello è fatto apposta. Sì, infatti il bullone dove ce lo metto, più che comprare un'antenna con lo stesso attacco e metterci lo stilo della frusta nera. A meno che non trovi la base come ricambio, purché coincida perfettamente all'attacco, Gianni. Ma domanda, sei sicuro che sia quella frusta nera, praticamente quella c'ha il mollone sotto e poi lo stilo nero, no? Fibra di vetro, quello che è. Non è che quella è una versione civile, no? Quelle sui 160 MHz, cioè non sai nemmeno se risuona in 27 a questo punto. Guarda che sono uguali, manca, cioè in base alle spire di avvolgimento dello stilo. E che ne so, Marco? Sai cosa faccio? Vi compro quell'antennino che c'ha Fusaro, che c'ha l'attacco uguale. Tutto male, che farà? Mi tengo l'antennino, se va male quella lì mi tengo l'antennino di la Raffi, mi serve già bene in bozza. Spero che sia della 27, perché se della 27 spara anche forte con l'antenna. Ehi, vabbè, un'antenna con un'altra mi già, a carica distribuita, quindi vabbè, meglio. Ma ce l'ha lo stub, poi rilancio Roberto, ce l'ha lo stub di taratura in punta, cioè hai modo di tararla? No, no, è stilo unico proprio, col tappino in punta, tappino di gomma, c'ha, è nuova nuova. Ma mi sa di antenna civile. No, perché che io ricordi, salvo che non fosse da tagliare, io ricordo che quelle per la 27 avevano uno stupido di taratura in punta, ma potrei sbagliarmi io, sono passati 30 anni. Vai Roberto. Ma la di Claudio non ne aveva stupido, c'era così uguale. Ma lo stupido ti accorda mezzo mega, cosa dire, un mega. Se quella è un'antenna di un'altra frequenza, non prende nulla. Sì, naturale, se è per la 27 si riesce a tarare, se è per un'altra frequenza proprio non risuona. Vai Robè. La cosa più semplice da fare è attaccare l'antenna al baracchino e misurare le stazionali, si vede se almeno c'è un principio di coso, di accordo. Sì, già, gli fai un minimo di massa, l'attacchi a qualche tubo di termosifone, almeno a vedere se sei, cioè, tanto se fuori banda le stazionali sono quasi infinite. Poi collegano la mezzatura d'antenna, piace ripetere il gruppo di zona. E quella è la cosa migliore. Averlo. Non so che mi sta venendo voglia di comprarlo, che prima erano inaccessibili, adesso ci sono tutti i rigetter, sto vedendo che stanno costando anche poco per stare a casa. Con quelli devi tutto, tutto. Allora, chiedimi, sono Luca Flip e Gianni, se ti parli, o se no a Danilo o quell'altro, c'erano tutti e due, come si chiama? Non mi viene la parola adesso, è cosa da te, non li analizzate? No, vabbè, lì perché non lo comprerei, è che bisogna vedere se ne voglia, capito, se mi fanno la passione, sì, fare le antenne è la cosa più bella che ci sia, però devi avere più strumenti, altrimenti lo volta però non sono. No, no, io parlo adesso per fare una prova così, veloce. E se c'è l'analizzatore puoi fare quello che vuoi, accorciare, eventualmente modificare, eccetera. C'è anche Riccardino, Riccardino, avanti a te il mic. Ok, come ho detto, quando stavo sistemando in tanto, che stavo prima le stavo per montare, c'era Gianni nel room e lo volevo salutare comunque. Ciao Riccardino, ciao, buonasera anche a te. Ebbene Riccardo, come andate adesso? Cosa? Com'era? C'era un po' di venticello, però c'era grecale oggi, che vento c'era? Comunque era buono, abbiamo fatto dei voletti, bello comunque, era buono anche per surfare, comunque, avevamo la tavola, però chi ce l'aveva era molto buono per fare surf comunque, al mare, ma di volo ne ho fatto ben poco, perché poi, come sempre, sono voluto andare al mare ed è rimasto babbo a fare voletti. Hai fatto il bagno pure Erika? Positivo. Com'era l'acqua? Buona? C'era un po' di vento o era caldo? Calmo. È arrivata un'onda quasi più alta di me. Sì, allora aspetta che vento c'era, che di lì, sì no, allora forse c'era un po' di maestralino, di lì entra il maestrale, che il cane è impossibile, quindi era maestrale. Non l'ho visto bene il vento, ma dicendo, considerando che la gente era, il grecale è impossibile che entri, potrebbe entrare il ponente, forse era ponente allora oggi, non tanto maestrale. Ok, cosa volevo dire? Vediamo se c'è Giovanni Bracco ancora in sintonia, avanti Giovanni. Io capo, no, vabbè, ci sono, ma sono resti in ascolto perché sto facendo un lavoro, dai, mi sto ascoltando, fai girare. Eia, ok, Marco Condor, prenditi, esci dalla gabbia e parla tu, dai. Mi sto distraendo un attimo, no? Mi hanno mandato un messaggio della foto di Porto Torres, no? Con la nave Tirrenia, cos'è? In porto, e hanno fatto un sondaggio col Titanic là in porto, mi ha fatto impressione, ha detto cos'è sta roba? Se si riconosce dei quattro fumaioli, mi pare di cui uno è pure finto, era pure finto. Certo, avevo letto proprio del Titanic proprio l'altro giorno, una cosa che non sapevo, il Titanic è una nave vecchia, non era nuova, lo sapete la storia del Titanic? Che aveva avuto un gravissimo incidente, si chiamava un altro nome, Vittoria mi sembra, una cosa del genere, gli hanno cambiato il nome, gli hanno fatto delle modifiche, però erano mal fatte, e la nave è affondata anche per quel motivo lì, era il viaggio inaugurale, però inaugurale di una nave già vecchia, e l'avevano modificata, eccetera, eccetera, era la vecchia nave, non mi ricordo se si chiamava Vittoria o qualcosa del genere, c'è tutta la storia, l'ho letto l'altro giorno, di cose che non si è mai pubblicizzata, era una nave vecchia, che non la voleva nessuno perché ha avuto un grandissimo incendio a bordo, non so cosa è successo, era una cosa delle caldaie, una cosa grave, l'avevano messa in ordine e la compagnia ci aveva l'altra gemella, infatti ce n'era un'altra gemella di queste navi che è efficiente, quella lì era stata raffazzonata da questa compagnia di navigazione inglese, eccetera, eccetera, non la volevano neanche assicurare i Lloyd, talmente era mal fatto il lavoro, e infatti sta di fatto, sì, c'è una nave inaffondabile, affondata perché la nave non ha tenuto il problema del coso, dell'incidente che ha avuto. Pensavo fosse una nuova. Nuova di nome, era il viaggio inaugurale del Titanic, però se tu guardi, leggi la storia del Titanic, era un'altra nave, non mi ricordo se si chiamava Vittoria, a nome della regina o qualcosa del genere, e aveva avuto un incendio a bordo, era successo un fatto grave, anche le caldaie erano esplose, infatti la nave era in disuso, poi l'ha acquistata questa compagnia, erano due navi gemelle, questa una si è rovinata e l'altra è stata riaggiustata, cioè l'altra, una è andata a buon fine, nel senso non avuto nessun incidente. Questa qua ha avuto un incidente gravissimo, l'hanno riparata nei cantieri di Manchester, mi sembra una cosa del genere, e infatti a me mi aveva fatto vedere un pezzo del Titanic, un amico ci aveva fatto, detto ma che strano che anche lui c'ha, infatti leggendo adesso, è la verità, lui ha detto questo è il pezzo del Titanic, ma lo diceva sempre questo amico che lui lavorava nei cantieri, nel coso, tutto il mondo ha lavorato, tipo proprio il portatore, insomma Gianni, per dirlo a Gianni, lui aveva un oblò del Titanic, però era, si chiamava con un altro nome, ma detto, questo è quello che c'era nel Titanic, detto, ma vai, non è di fesseria, invece cacchio, adesso pensandoci bene è proprio così, lui aveva un oblò e l'aveva dato, forse c'è nel museo di Porto Torres, qualche anno fa l'ha dato, perché c'era un sacco di roba lì, di cimeli, tra cui questo coso qua, detto, questo del Titanic mi sembra Manchester o qualcosa del genere, quando ancora non si chiamava Titanic, poi l'hanno messa in navigazione, hanno fatto il nome Titanic e di lì è stato fatto un lavoro di raffazzonamento e sta di fatto per un incidente che non era così grave la nave affondata. Pure la nave fuori Dima. Oddio, fuori Dima. Ehi, col telaio storto. Ehi, le gomme sgonfie pure, gli ammortizzatori da cambiare. No, ma non mi ha dato un messaggio. Presumo c'eri stasera, di successo stasera. Isole Tremiti, traghetto Tirrenia finisce contro gli scogli, è sempre la battutina, dice ad essere parente di Schettino. Magari proprio così. Ogni tanto io non riesco a capire questo cazzo, con tutte le tecnologie che abbiamo, come fa ad andare a sbattere sugli scogli una nave che ha tre radar, radar di superficie, radar di profondità e radar, cioè di prossimità, di superficie e di lunga distanza. Come cacchio fa andare una nave con tutti gli allarmi che ci sono, o lo fanno apposta per farsi fare delle assicurazioni? Sinceramente è una cosa assurda, secondo me. Che cos'è la vera esperienza? Non c'è il vento, non perché la vera esperienza è forte. Sì, l'abbrivio, certo, è normale, però cacchio, già c'hai motore, ma che non si blocchi il timone, ma ci sono tanti sistemi di fermarla una nave, cioè se tu prendi uno scoglio vuol dire che c'hai già, lo scoglio sono tutti segnalati, e ci sono tutti i sistemi di sicurezza che ti avvisano quando ci stai andando sopra, infatti mi sembra molto strano, sinceramente manca a bocca aperta, ora distratto il controllore, ma ci sono gli allarmi sonori, non so se la nave, se ci siete mai capitati nelle sale di comando delle navi, di tutte le imbarcazioni di un certo tonnellaggio, non dico le barchette, ma quelli hanno dei sistemi di sicurezza allucinanti. Se è successo veramente così è una cosa un po' assurda, ai tempi duci. Direi di far riprendere la Riccardina, avanti Riccardina. Sì, va bene, vado avanti, sì, ma non lo so neanche io come faccio a schiantare. Comunque, scusate una cosa, ma quello che sento un pochino basso di voce è Fabio, Master. No, è Michele, ma non ti arriva basso, devi arrivare forte Michele dalle tue... Basso di voce. Sì, magari anche di segnale sono basso, cioè scusano due basso. Ma come hai sentito, figurati tu? Basso, basso, comunque, no, ti avevo sentito prima e volevo salutare perché cambio le persone per chi non sono. Ciao Michele, nuovo? Ciao Gianni, ma che nuovo? Calco number one. Michele, chi Michele si? Ma io sto uscendo di radio, sì o no? Tu stai uscendo troppo forte, mi fai sorso ogni volta, Antonio. Oh, sono mezz'ora che sto parlando, non risponde nessuno. Oh, già pensiero magari che fosse un apparecchio da buttare. No, pensavo avessi fatto una battuta tu, Antonio, per quello non ti ho rilanciato. Ah, ok, va bene. D'accordo, non c'è problema. Tutto a posto, tutto a posto, non c'è problema. Cosa hai fatto? Non hai riattaccato l'antenna? No, la c'è, no, sto vedendo la panica grande, sto vendendo. L'hai visto su Facebook, sì? No, stai vendendo? L'apparato grande sto vendendo, 500 euro su Facebook. Quale? L'FT857D, 520 euro. Vabbè, 500 a Sassari, 20 euro sono di trasloco più che altro. Perché lo stai vendendo? Perché mi sono rotto i coglioni, la verità. Mi sono rotto veramente le balle, già da tre giorni. Quindi a un certo punto non me ne frutto più niente. Ma cosa te lo vedi? Era l'unico apparecchio che ci avevi come si deve. Questo che cos'è? Lo so. Cosa vuol fare, secondo te? Perché ti sei rotto le balle? Non ho capito. Perché te lo spiego un altro giorno, non c'è problema. Non ci vediamo. Che scarica? meglio. No, sai che no, E qua. E adesso che apparecchio stai usando, che sei un bel forte. No, no, 87 sto usando. Troppo forte. E l'apparecchio, il microfono, cioè. Se vuoi te lo prendi, CM40, te lo sai, Spezia, Sa Delta. A Sa Delta? E io, lo sai che tu, sto parlando a voce bassa, lo sai che io parlo a voce bassa, non è che parlo a voce... Abbassa. E quello lo stai prendendo? Sì, tutto vendo, tutto, mi vendo tutto, mi vendo, non mi frega più niente, vado a come si chiama, a soldatessa e basta. Cosa ti vendi tu? Te la stai incazzando e stai dicendo così, ma se adesso a venderlo lì, se non devi venderlo un po' lì. Mamma mia, Gianni, si sono illuminati già gli occhi. Ma c'è ancora altro. E guarda che l'ho fatto bene il mio microfono, l'hai sentito che cosa ci ho messo? La capo sulla di qua. Inga, arriva le spalle di scocciata. Inga, il giorno ce l'avevo, me l'ho venduto. Io il giorno dopo avevo le spalle di 500, quello era bello, veramente quello. Quello era un microfono allucinante, usciva veramente bene, la verità. Già un giorno che l'ho venduto quello, il V131, poi c'avevo le... cosa posso dire? Cos'era? Le... il V131 c'avevo... perché c'avevo il precedente AR7, pensate, 40 canali. Poi un giorno, una volta mi è venuto le... sono venuto i carabinieri, mi ha fatto, come si chiama, l'azione di tutto. Hanno controllato tutto l'appartamento perché... vabbè, non te lo spiego adesso. In così è... l'hanno visto, non mi hanno detto niente, la verità. Faccio la storia, ma ricordo. Quando usavo il volo, usavo il Sa Delta NT22, quello rosso e nero. Appunto, sì, esatto, è uguale. Una volta avevo una ruota qua. Adesso c'è ancora una ruota, c'è ancora. Insomma, che le Falco 1, che si è smenticato. Ma lo sento, Falco, penso a quell'altro amico vostro, Falcone. Michele. Lascialo stare, non è che salti fuori. Io non l'ho conosciuto, l'ho soltanto sentito raccontare da voi, ma sicuramente era un bel personaggio, dai. Non piombo, no, già, c'era sentato, ma ogni passaggio lungo. No, beh, dopo ascoltare l'MP3. A me stai dicendo? Ma di Falcone stai parlando? Tu l'MP3 ce l'hai per ascoltarlo, l'apparecchio per ascoltare l'MP3? Ma me l'avevi già fatto sentire, qua in frequenza l'avevi messo, mi pare, qualche tempo fa, o sbaglio già? Non lo ricordo, io ce l'ho, c'ho tutte le registrazioni. Perché ci sono anche i suoi amuleti. Ah, Gianni dice che andava d'accordo con te, vero? Com'è? Io non sai come vi facevo chiamare, orgasmo, mi cercavo di ticcare, avete sentito orgasmo? Oh, un bel porcaccione eravate all'inizio, adesso diciamo la frequenza si è un po' pulita, un po' più delicata, un po' più di rispetto, ma prima, come raccontavate voi, era un ciaramedio, ci scappavano le risse, conoscevo gente che andava a cercare per picchiarlo, buh. Sì, sì, è vero. Andavano, facevano le spedizioni punitive per chi metteva la portata, andavano a cercarlo in macchina e ripulia. A me Salvatore Maestrale mi aveva fatto conoscere, come si chiamava, quello Marco 131, e ha iniziato a raccontare quando lui andava, diceva io andavo sotto casa sua, me lo facevo scendere, non so quanti ne aveva picchiato, e confermava Salvatore, sì sì è vero, era un affarralore, nel senso ci andava spesso quando succedevano queste cose. Confermo. Carissimo amico mio, Marco 131. È un bravo meccanico pure, io l'ho conosciuto, lui mi conosceva già, però io non lo conoscevo, cioè, no, sono venuto a te in officina tante volte, a tuo padre, gli faceva lavori di meccanica a coso. Era un bel forzuto, era piccolo, tracagnotto, ma aveva una forza nelle braccia. E io lo conosco bene. Ciao Muscolo, ciao Tino. Ciao, buonasera a tutti, sono entrato così giusto per confermare, dai, era in quel Rex che faccio una cosa al PC. Vabbè, riprendete, dai, ciao ciao. Ciao, tu hai sentito Falcone e ti si sono illuminate le orecchie. Falcone faceva da bravo quando entravo io. L'hai conosciuto tu? No, io non l'ho conosciuto, non posso giudicare, per sentito dire dico e basta, però anche tu hai avuto il piacere o il dispiacere di conoscere. Sì, ero davanti di Alessio. Ah, cacca da lei, non hai detto niente tu. Guarda, Marco risponda perché gli hanno sentito, se no ti rispondo male, guarda. La vita che ti piaceva quando passava il microfono ai piedi. No, la vita mi piaceva quando veniva in pizzeria, pagava solamente lui, di casa sua, la verità. E poi io gli avevo lo scontrino. Gli altri lo accompagnavano a casa. E tu gli mettevate in tutta la pizza. Prima si faceva fare la pizza e poi si prendeva anche il resto. Vabbè, dai, continuate, ciao. No, ma ho concetto di venire a Falcone per prendersi la pizza e mi ciccava le pizzali di là. Ma chi era che gli aveva... aspetta, l'avevo ospitato a casa sua, gli aveva fatto mangiare marmellata ed era lassativa e se n'era andato legandosi a spagole i pantaloni alla caviglia perché avete capito? Lollo, Salvino. Ah, Lollo, sì, mi ricordo il nominativo. Proprio come ho messo il Guttalax. E quando sono andati in piazza Castello, gli hanno detto avvisa tua madre che dobbiamo andare in pizzeria, se no si preoccupa, cazzo, c'aveva uno di quei capelli tipo cowboy così. Andavo a entrare nella cabina, cazzo, di cui ai Mazzarandi a cosa, a faccia, la porta, come c'era il cappello grosso, lui ci riprovava di nuovo una su Goi, poi sulla Joana. Era un sombrero. Ma anche tu l'hai conosciuto Marco? Certo, sono andato anche a casa sua, mi ha fatto caro caro. Marco era il ragazzo, cazzo, diceva, ai ma cocondo, ti amo Marco. Bianco per me là che facciamo roba qua. Sono andando in terra, ci siamo dopo là. Vabbè. Buona mamma. Ma cocondo. Comunque all'epoca lo stereo gliel'avrei fregato volentieri, c'aveva un ben impianto stereo. Era ricco il Falcone, va via di là. Ti ricordi cosa aveva detto il fratello? Che potrei comprargli tutti i portatili che vuole, però lui col portatile rischia che lo investono, perché si distrae troppo al baracchino. Vai Robè. Il padre me l'aveva detto, era nel letto, era malato il padre, ha detto mi scusi se l'ha fatto venire qua, ma lui non ha bisogno di scambiare, di fare, io potrei comprare tutti i portatili che vuole, ma se poi ricopro il portatile qualche macchina lo mette sotto. Eia. Oh, ci siamo presi Giovanni comunque, Robè. Giovanni stava facendo delle operazioni, vediamo se ha finito. Attenzione Giovanni, se vuoi rientrare batti un colpo. Oh no, non posso rientrare, Robè, sto facendo roba con più, dai, sono in ascolto. Eia, dai, rimani in ascolto, tanto io adesso vado via, ti faranno compagnia i signori amici qua della frequenza, i porcaccioni della frequenza. No, ma devo dire che è già abbastanza tranquillo, negli ultimi anni, nell'ultimo periodo si sono calmati. Io sono entrato nel 2004, Marco, sono il più giovane a parte Riccardino qua, di queste bande cittadine, e qualche anno fa c'erano un po' di, non dico affarraturi perché non ne ho mai visto, ma qualche discussione animata c'è stata, qualcuno si è arrabbiato un pochettino, adesso diciamo lì ai massimi tutto tranquillo, vai, ci può essere qualche opinione sbagliata, ma prima qualche voce, qualche parolaccia qualcuno già se l'è detta. Arrivare alle mani non lo so, non credo, ma anni prima, nei tempi vostri, qualche decennio fa, sicuramente qualche scaffone è partito. No, beh, io sto ridendo sempre per una tua descrizione di questo tipo in un bar X, no? Che si stava parlando con due, credo, più giovani, no? E cioè, stava picchiando lui, si è visto il sangue addosso e credo fosse il suo, ha chiamato uno dicendo ciao ma mio fratello che mi c'è qui dentro, e ma c'era il sangue di quei due malcapitati. Ma scusa un attimino, dove è successo questo episodio? Perché ti devo raccontare la stessa cosa io. No, appunto, una volta tu lo stavi raccontando, tipo 2 anni fa, adesso non mi ricordo, 3 anni fa, lo stavi raccontando a qualcuno, io mi stavo sganasciando dalle risate pensando alla scena, come mi avrà detto che mi sono i cudenti, tutti quelli tutti in sangue erano. No, pensavo lo stessi raccontando tu, perché ero presente a quella roba. Questo è un tipo di ottava, uno che festava forte, e c'erano questi fratelli che sono scesi di lì a fare prepotenti alla torretta, al bar della torre, da Elinio, dove stavamo noi, ma delinquenti forti, hanno fatto di tutto e di più, rompendo le scatole a tutti, alla gente, proprio spaccando bicchieri, eccetera. Io ero ragazzotto, cacchio, quelli erano già grandicelli, molto più grandi di me. È entrato questo e si sono attaccati con questo qua, cazzo, gli ha dato questa sussa. Lui era in magliettina, in ciabatte e in pantaloncini, tutto pieno di sangue questo qua, e lui quando si è visto il sangue, cacchio, cioè, prendi la moto, prendi la moto, vai da Ernesto, fai venire a mio fratello, tutti gli amici, rimani qui, cultura, ce l'hai fatto in sangue, e il sangue era degli altri, non era il suo. Successo. Ed era la stessa volta che vi raccontato, non mi pare, allo stadio di Pinuccio la Cina, che aveva reagito contro qualcuno, nonostante la mole, è stato fulmineo nella risposta. No, Pinuccio la Cina è successo alla torre, in curva dalla parte, diciamo, di Ottolino, dove c'era Renault, non la curva dove vanno i suppo. E c'era questo qua, era una partita di Coppa Italia, non mi ricordo con chi era la torre, c'era non tanta gente di notte. E c'era questo qua facendo lo scemo, iniziando a spaccare bottiglie, tirando così, ha detto finita che ci sono, e quello perché pure tu ci sei. Cacca, non gli ha dato neanche il tempo, si è buttato per uscire la Cina, già è maduro, no? Gli si è buttata addosso, l'ha preso per il collo, ha iniziato a tirarle a pugni a testa, gli sono usciti gli occhi fuori, io mi ricordo la scena, gli è passato Ruacchini, come si dice a Sasso. Ma chi è questo Pinuccio la Cina? Pinuccio quello che ci mette a fare il podista? No, quello è Giuseppe, Pinuccio quello è un altro, Rucchi. No, stiamo parlando di una persona, è morto pure, adesso ci avrebbe avuto non meno di 65 anni, forse anche di più. Una cosa enorme, una bestia di uomo, pesava 250 kg, grosso, alto e grosso. Quando c'era i mondiali dell'Italia 90, non so se l'hai mai visto, che girava con quel furgone grande, un pick-up, dai, cassonato,